Europa 24. Europa 24, l'avete sentito, tutta dedicata alle parole del Premier Matteo Renzi, intervenuto poco fa ad effetto giorno. L'Europa, oltre che a dire, inizia anche un po' a dare all'Italia. Sentiamo Renzi. Che l'Italia tutte le volte fa la faccia all'Europa, ci dice, l'Europa ci dice: oh, l'Europa inizi, anziché a dire, a dare qualcosa all'Italia, visto che noi tutti gli anni mettiamo 20 miliardi nel bilancio europeo e ne recuperiamo 12. E poi ci dobbiamo prendere la linea sull'immigrazione da persone che prendono i nostri soldi e che poi ci fanno anche la morale. Volevo arrivare proprio a questo, insomma. Volevo arrivare proprio a questo. Gli ungheresi, lo scontro è duro con Orban, no? Ma non è duro con gli ungheresi. Non è duro, è che Orban, che è una persona intelligente, io non condivido niente della politica di Orban, ma è un uomo molto intelligente, ha perfettamente capito che nella politica italiana c'è un cambiamento strutturale. E lo ha capito perché, da uomo intelligente qual è, ha saputo leggere la mia frase: sapete che c'è? Fate come vi pare, ma dal febbraio 2017, quando si discute di bilancio, ci facciamo sentire anche noi. Quindi, a parità di onori, quindi parità se la politica, di onori. Quindi se la politica ungherese sui migranti rimarrà la stessa e di alcuni paesi dell'est, l'Italia metterà il veto sul bilancio. Il bilancio europeo del 2020, perché si inizia a parlarne tre anni prima, dal 2020 al 2026, può vedere due tipi d'Italia. Un'Italia dei tecnici, come quella che ha discusso il bilancio precedente, quello che è in vigore adesso, il bilancio è di sei anni, no, in Europa. Mi scusi, Presidente, però ho capito che ha bisogno di spiegare, però la domanda era secca, le chiederei una risposta secca su la questo. La risposta sta nella domanda, perché l'ho comunicato io che mettiamo il veto, quindi sì. La risposta è sì, lei mi ha fatto una domanda a una considerazione che avevo espresso ieri, quindi la ringrazio. Mi va molto piacere che lei mi aiuti a ridire la stessa cosa. Volevo soltanto spiegarla, cioè che nel 2000 il bilancio non è annuale, è ogni sei anni. 2014-2020 l'ha fatto il governo dei tecnici e ha dato un sacco di soldi ai paesi dell'est. Se ci sarà un governo di politici in grado di dire: ragazzi, è finita la pacchia ai paesi dell'est Europa, saremo in condizioni di dire più onori ed oneri per tutti. L'immigrazione non ci lasciate soli a gestirla e poi pensate di pretendere i nostri soldi. Non voglio dire taccerianamente voglio indietro i miei soldi, perché non è quello il nostro modello, ma dire molto seriamente: adesso l'Italia si fa rispettare, credo che sia un fatto di buon senso. Queste dunque le parole del Premier Renzi poco fa qui su Radio 24, intervistato da Simone Spezia. Ora le altre notizie europee. L'obiettivo delle trattative sulla Brexit deve essere quello di tenere assieme l'UE e di ridurre al minimo possibile le differenze con la Gran Bretagna, lo ha detto Angela Merkel, ricevendo a Berlino il rapporto annuale dei 5 saggi dell'economia, che contiene preoccupazioni sulla tenuta dell'Unione Europea dopo la Brexit. Da un lato si tratterà di mantenere amichevole e non lesivo dei rapporti economici il rapporto con Londra, ha aggiunto la cancelliera, ma dobbiamo anche tenere coesi gli altri 27 paesi, senza fissare norme secondo le quali alla fine ognuno prenda dall'Europa quel che gli fa comodo. Investire in Tunisia, nel suo presente, nel suo futuro e soprattutto nei giovani, è una priorità strategica per l'Unione Europea. Lo ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, a Tunisi per una visita ufficiale che si concluderà domani. Il messaggio è chiaro, ha detto Mogherini: la Tunisia è realmente un partner privilegiato e speciale. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.